hermano, non ti presentare, non puoi riposare, hai il tuo lavoro da finire, non puoi rimandare, non puoi più sognare, non puoi rallentare, hai il tuo lavoro da finire, non ti farà star meglio, ma dovrai stare sveglio, ti toglierà la libertà, ti omologherà, non ti limiterà, ti limiterà il conflitto potere che avrai, da solo poi rimarrai, allora non fermarti mai, non finisce mai la settimana, aumenta la performance, è una risorsa umana, accetta i divieti, accetta i ricatti, d'altra parte questi erano i patti. Non ti puoi fermare, non ti puoi sentare, non puoi riposare, hai il tuo lavoro da finire, non puoi rimandare, non puoi più sognare, non puoi rallentare, hai il tuo lavoro da finire, devi far la spia se non vuoi andartene via, avrai finti riconoscimenti come ringraziamenti, non puoi fare errori se ti distrai, sei fuori, non avrai una vita privata ma avrai una vita privata, devi andare attento, devi essere sempre contento, combatti chi come te è in una situazione brutta, ma adora sempre chi ti sfrutta, non chiedere permessi, non devi avere altri interessi, non ti puoi fermare, non ti puoi sentare, non puoi riposare, hai il tuo lavoro da finire, non puoi rimandare, non puoi più sognare, non puoi rallentare, hai il tuo lavoro da finire. Spese al tuo lavoro.